Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di due libri e parliamo di una nuova collana nell'ambito delle edizioni del Mulino, una collana dedicata alla Voce Info, lavoce.info, un sito internet fondato da Tito Boeri che abbiamo in linea. Buonasera Boeri. Buonasera. E abbiamo in linea anche Michele Polo, che è l'autore di uno dei primi libri di questa collana. Buonasera professor Polo. Buonasera. Tito Boeri è professore di economia del lavoro all'Università Bocconi, collaboratore di Repubblica, direttore scientifico del Festival di Trento. Tra l'altro, Tito, complimenti per il festival, tutto bene anche quest'anno? Sì, davvero, è andato molto bene, grandissima partecipazione, molto interesse. Michele Polo insegna economia politica alla Bocconi, è direttore del giornale degli economisti ed è un collaboratore di lavoce.info. Ecco, i due libri con cui inizia questa collana sono appunto di Tito Boeri, Parlerò solo di calcio, e di Michele Polo, L'informazione che non c'è. E innanzitutto vorrei chiedere a Tito Boeri come mai la Voce Info, dopo 10 anni, decide di passare da internet alla carta. Di solito si fa il salto contrario, si passa dalla carta a internet. Voi invece, dopo aver avuto un discreto successo, diciamolo, come sito internet, un po' di riferimento, di dibattito tra gli economisti, avete deciso di lanciare anche una collana di libri. Come mai? Beh, ci sembra utile raccogliere in un libro, in una serie di libri, delle saggi, delle raccolte di informazione, dei commenti che sono stati scritti nel corso di diversi anni. La Voce ormai esiste da 10 anni e quindi abbiamo ormai sul sito un archivio di commenti, di opinioni, di elaborazioni, di documenti che ci sembrava utile anche raccogliere su un supporto cartaceo, perché internet va molto bene per essere sulla notizia, per essere molto rapidi nell'informazione, nel commento molto rapido. La carta va molto bene come qualcosa che uno tiene come documento e che può consultare di tanto in tanto. Ecco, quindi un modo diverso che si aggiunge, un modo diverso di fare informazione, di fare approfondimento, è proprio l'informazione dedicato il libro di Michele Polo. Allora chiedo a Michele Polo se questo strumento, se il libro quindi ha ancora un futuro. Il libro ha sicuramente un ruolo e anche un approccio ai problemi diverso da quello di internet, se vogliamo più meditato, con uno spazio maggiore e che lascia più tempo alla riflessione. Questi libri, incluso il mio, rispetto ai molti interventi che io e gli altri redattori abbiamo fatto sulle diverse tematiche, cerca di dare una sistematizzazione, una riflessione sull'evoluzione dell'informazione di questi 10 anni. Ecco, perché questo titolo, L'informazione che non c'è, Michele Polo? Ma diciamo, il libro è costruito su tre flash o tre foto di gruppo. L'informazione fino, direi, alla metà del decennio scorso, quella che chiamo la situazione tradizionale, la nuova situazione che si crea poi con l'emergere delle pay TV che affiancano il duopolio delle televisioni tradizionali e la crisi dei giornali, la fotografia di oggi e il mondo che iniziamo a scorgere, prima di tutto imperniato sugli effetti che internet ha generato sul mondo dell'informazione. Ecco, ma attraverso questi tre flash cerchiamo di riflettere sullo stato dell'informazione, che ha diverse problematiche nelle tre situazioni, ma che in tutti e tre i casi vede delle difficoltà. Anticipiamo un po' la conclusione, anzi guardiamo un po' un futuro: potranno coesistere questi elementi di informazione, la televisione, internet, la stampa, i libri, coesisteranno, ovviamente magari un po' diversi rispetto al passato, però ci sarà ancora un futuro, soprattutto per i giornali, che sono forse la realtà più in crisi, oppure ci sarà un giorno, come si diceva qualche volta, in cui si stamperà l'ultima copia di un quotidiano? Nel mondo di oggi c'è un'enorme competizione di tutti i media per una risorsa scarsa, che è il tempo a disposizione degli utenti, e in questo i giornali, come i libri in un certo senso, che richiedono relativamente più tempo per fruire delle notizie, sono in difficoltà rispetto a mezzi più veloci come internet o anche la dimensione video. E quindi è il tempo che non riusciamo ad espandere, un tempo che in questo periodo stiamo dedicando anche a guardare questi campionati europei di calcio, non ci danno grandi soddisfazioni. Il titolo di Tito Boeri è "Parlerò solo di calcio". Come mai Tito ha deciso di parlare solo di calcio dopo aver parlato di economia del lavoro, di economia politica, di grandi scenari internazionali, di aver dialogato con i premi Nobel, e adesso ci fermiamo a parlare di palloni e tacchetti? Beh, parlo di calcio con un approccio da economista, però parlo di calcio perché penso sia giusto dedicare proprio al calcio un'attenzione come quella che peraltro gli italiani dedicano al fenomeno. Pensate che 3 italiani su 4 si dicono interessati al gioco del pallone, e il calcio è qualcosa che catalizza l'attenzione di milioni di individui. Pensate che la finale dei campionati del mondo è stata vista da 700 milioni di persone. Ci sono poche altre cose al mondo che riescono così a catturare l'attenzione umana, che è una risorsa davvero scarsa in questo momento. Quando si parla di calcio viene sempre la tentazione di usarla come metafora di problemi più generali del paese. In effetti sono molti i problemi e i mali del calcio italiano che si presterebbero a questa funzione: il peso, la concentrazione mediatica, il modo con cui la concentrazione mediatica ha peso sul potere economico e sportivo delle squadre di calcio, il fatto che c'è una corruzione spesso molto forte, che ci sono episodi e illeciti sportivi che si sono ripetuti più volte nell'ambito del mondo del calcio, il fatto che vengano ignorati sistematicamente i giovani. Insomma, le squadre italiane sono le più vecchie, la nazionale italiana è stata per anni la nazionale più vecchia del mondo, quindi tutte cose su cui sarebbe facile fare dei paralleli con la realtà italiana. Io nel libro però cerco di resistere a questa tentazione, perché dico: noi dobbiamo davvero preoccuparci del calcio in quanto tale, perché il calcio è davvero importante, non tanto per quanto riguarda la sua dimensione economica, conta per circa lo 0,1% del prodotto interno lordo, ma conta proprio per il fatto che ha questa grandissima capacità di attrarre l'attenzione umana. Ecco, e parli anche di metodo scientifico con cui era organizzata la corruzione. Molte pagine di questo libro sono dedicate proprio a Calciopoli, alla passata Calciopoli, alla Calciopoli attuale. Indubbiamente la corruzione è qualcosa diffusa nel mondo del calcio, il sistema delle scommesse porta con sé anche degli interessi elevati. Com'è possibile risolvere questi problemi in due parole, Tito Boeri? Il metodo scientifico, perché ho studiato questi problemi identificando anche partite, un metodo per nel mio lavoro da economista per identificare delle possibili partite in cui ci potrebbero essere degli illeciti al di là di quelle che sono già dei sindacati dalla magistratura, perché in effetti quello che succedeva in questo caso in Calciopoli è che c'era una pressione molto forte sugli arbitri, che sono l'anello più debole della catena, insomma, nell'industria del calcio sono quelli meno pagati, e quindi su di loro venivano esercitate delle pressioni molto forti. Noi abbiamo studiato questi episodi e abbiamo formulato un metodo per scoprire quando ci possono essere altre partite in cui ci sono degli illeciti, proprio guardando a deviazioni molto forti dalle previsioni che si possono fare sugli esiti di una partita sulla base della forza delle squadre in campo. Ma è un sistema nazionale, adesso stiamo seguendo gli europei, non ci stanno dando grandi soddisfazioni, però in campo internazionale di corruzione per ora non si parla, per fortuna. Beh, in campo internazionale ci sono stati degli episodi di calcio scommesse. Il calcio scommesse è un fenomeno diverso. Il calcio scommesse è il singolo giocatore spesso che in qualche modo non cerca di alterare l'esito delle partite, ma semplicemente soprattutto il numero di gol. Ed è qualcosa che avviene in modo diverso da Calciopoli, molto diverso. Calciopoli era qualcosa davvero di organizzato da alcuni direttori sportivi che proprio giocavano su questo periodo nella carriera arbitrale in cui un arbitro si aspetta di essere promosso alla carriera internazionale, questo gli permetterebbe di aumentare moltissimo i propri redditi, e quindi proprio in questo passaggio molto delicato facevano delle pressioni sugli arbitri. Un'ultimissima domanda a Tito Boeri su questo tema: il fatto che le società di calcio sono tutte più o meno indebitate vuol dire che gli interessi in gioco non sono tanto interessi economici quanto sono interessi di altro tipo. Chi lo fa per passione, forse, di indebitarsi per vedere una propria squadra giocare a calcio. Certamente, no? Credo che la motivazione dominante dei presidenti delle squadre di calcio è quello di avere un ritorno di immagine. Pensiamo al caso di Abramovic, certamente non sarebbe così popolare oggi in Inghilterra se non avesse comprato e poi rafforzato il Chelsea, ma il punto centrale è che questo indebitamento delle squadre di calcio poi spinge in alcuni casi a davvero a procedere con l'illecito sportivo. Ci sono dei direttori sportivi senza in qualche modo ritegno che chiedono ai loro giocatori di prestarsi a queste combine perché se non lo fanno non verrebbero pagati. Beh, una problematica davvero, c'è proprio una questione di morale che va formata nell'industria del calcio. Ci vuole una sanzione sociale molto forte per questi e soprattutto i media hanno un ruolo molto importante nel premiare i calciatori che denunciano l'illecito, come un po' ha fatto Prandelli quando ha convocato il calciatore del Gubbio, Simone Farina, che aveva denunciato un illecito nella Team Cup. Grazie a Tito Boeri, abbiamo parlato di calcio, stiamo vivendo momenti difficili forse per la nazionale, speriamo che tutto si risolva bene, almeno sotto il profilo della trasparenza e dei risultati sportivi. Abbiamo parlato con Tito Boeri e con Michele Polo della nuova collana nell'ambito del Mulino, collana della Voce Info, in cui sono presenti gli autori che partecipano appunto a questo sito internet che ha festeggiato i suoi primi 10 anni. Tito Boeri, il primo libro è Parlerò solo di calcio. Michele Polo, il primo libro è L'informazione che non c'è. Seguiranno altri volumi di Andrea Boitani, di Massimo Bordignon, di Francesco Daveri. Sono, ricordo, in questa collana del Mulino, sono circa un poco più di 100 pagine ciascuno per 10 euro. Grazie a chi ci ha ascoltato, ringrazio Paolo Corleoni in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è sabato prossimo.